esperto dice che c'ho l'ego esagerato. Ho detto ok, però gli avrei sparato con la sua faccia saccente superiore di quello che fa cultura di spessore. Ed io rispondo scrivendo una canzone con quei tre accordi che oltre non so andare, e già mi sogno di cantarla all'Umberto. Non ho la rima per finire il quarto quarto. Umberto suona la chitarra da gran figo, è un socialista realista duro e puro. Umberto dice niente foto ai concerti, soltanto applausi moderati e non molesti. Umberto mi corregge pure in geografia, tra me e lui nette la dicotomia, due le visioni della vita in generale. Mi ha detto pure ti trascino nel penale, scherzava, spero. Umberto. Umberto è quello a cui vorrei assomigliare, le idee chiare da gran uomo di valore, ma non scherzavo, era un modo originale.